Una delle grandi verità comuni in tutte le religioni è che la divinità è talmente inaccessibile che non si può conoscere e neppure vedere. Anche il Dio dei cristiani è ritenuta una divinità che non si può vedere, verità questa sottolineata due volte dall'Apostolo Giovanni. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi. 1 Giovanni 4,12. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Giovanni 1,18. Chi crede che la Scrittura, nella stesura originale, sia stata ispirata da Dio e sia senza errori, crede fermamente che Dio non si può vedere, quindi accetta di conoscere in parte e umilmente ammette anche di comprendere solo in parte ciò che è scritto. Generalmente i credenti pensano che il Dio dei cristiani sia una divinità che non si può vedere, di conseguenza concludono che le apparizioni di Dio nella storia siano semplicemente visioni nella mente dell'uomo. È vero che Dio può rivelarsi in un sogno o in una visione, senza per questo essere visto corporalmente, ma sarebbe un grosso errore. Fatale pensare che le affermazioni della Scrittura concernenti le manifestazioni del Dio dell'Antico Testamento alludano a apparizioni non corporali. Queste riflessioni hanno lo scopo di correggere un comune errore di interpretazione della parola di Dio e di dimostrare che la divinità dell'Antico Testamento è stata vista. Ma prima di prendere in esame che il Dio dei cristiani e degli ebrei è stato visto e si può vedere, consideriamo i motivi scritturali che possono indurre a concludere il contrario, ossia che Dio non si può vedere. L'Apostolo Paolo, nella prima lettera a Timoteo, così scrive in merito a Dio: «Il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio eterno. Amen». 1 Timoteo 6.16. Questa testimonianza è confermata nell'episodio che narra quando Mosè, trovandosi alla presenza dell'Eterno, gli chiese di vederlo. L'Eterno gli rispose: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà». Disse ancora: «Tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere». Quindi l'Eterno disse: «Ecco un luogo vicino a me, tu starai sulla roccia, e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano, finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle, ma la mia faccia non si può vedere». Esodo 33.1, 9-23. Come intendere allora le affermazioni della Scrittura che descrivono le apparizioni dell'Eterno ai patriarchi? L'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della tenda durante il caldo del giorno. Genesi 18.1. Anche 17.1. 12.7. Per Isacco e Giacobbe. Genesi 26.2. 26.2.4. 35.1, 35.9, 48.3. L'apparizione dell'Eterno ad Abramo viene ricordata anche da Stefano, il primo martire, nel suo discorso scritto nel libro degli Atti. Egli disse: «Fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Carran». Atti 7, 2. L'apparizione dell'Eterno ai patriarchi consisteva nella visione di una nuvola, o i patriarchi vedevano esattamente la fisicità dell'Eterno? La risposta non può discostarsi dal significato del verbo apparire, e per comprenderlo è opportuno prendere in esame cosa intendevano gli scrittori biblici quando altrove hanno usato questo verbo. Prendiamo un primo esempio dall'Apostolo Paolo, il quale in poche righe usa il verbo apparire 4 volte. «Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi, e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto invano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e risuscitò a il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici. In seguito, apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Successivamente apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. 1 Corinzi 15, 1 a 5. Non vi sono dubbi che Gesù si sia fatto vedere fisicamente a Pietro, a 500 fratelli, a Giacomo e a Paolo. Nessuno pensa che queste persone abbiano visto una nuvoletta o lo abbiano visto in modo indefinito in un sogno. Ma tutti videro la fisicità di Gesù, ossia ne contemplarono il corpo con il quale era risorto. Il verbo apparire in questo caso ha il significato di farsi vedere. Proprio perché il verbo apparire ha il significato di mostrarsi o farsi vedere, gli evangelisti si preoccupano di usarlo quando descrivono la resurrezione di Gesù per testimoniare che il suo corpo risorse e che fu visto fisicamente. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni, ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo queste cose, apparve in altra forma a due di loro, che erano in cammino verso la campagna, anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Infine apparve agli undici mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto resuscitato. Marco 16.9-14. Notiamo che Gesù rimproverò gli undici discepoli, che erano stati con lui alcuni anni, perché non avevano creduto alla testimonianza di coloro che lo avevano visto. Dunque, nessun dubbio che il verbo apparire abbia significato di vedere ciò che è in realtà. E, così che dobbiamo intendere il verbo apparire, anche se in certe circostanze saremo pronti a pensare diversamente, come per esempio nell'episodio quando Mosè vede l'Eterno Dio. Or Mosè pascolava il gregge di Getro, suo suocero, sacerdote di Madian, e gli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un roveto. Mosè guardò, ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. Allora Mosè disse: «Ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il roveto non si consuma». Or l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse: «Mosè, Mosè!» Egli rispose: «Eccomi». Dio disse: «Non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo». Poi aggiunse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». E Mosè si nascose la faccia, perché aveva paura di guardare Dio. Esodo 3, 1 a 6. Purtroppo questo famoso episodio non è stato ancora compreso, sia perché nelle sale cinematografiche viene proiettato in modo fantasioso, sia perché non accetta letteralmente ciò che è scritto. L'episodio del roveto deve essere compreso così: mentre Mosè pascola i gregge, l'Eterno si fece vedere avvolto in una fiamma di fuoco in un roveto che non bruciava. La figura che Mosè vedeva era semplicemente quella di un uomo comune, e lo dimostra il fatto che Mosè era attratto non tanto dalla presenza dell'uomo misterioso, ma dal roveto che bruciava e non si consumava. Vedere un uomo nel deserto avvolto in una fiamma di fuoco non è un'esperienza comune, e molto probabilmente Mosè avrà pensato si trattasse di un angelo. Ma che un roveto non brucia è un'esperienza unica. Così Mosè si avvicina al roveto per vedere da vicino ciò che succedeva. Ma l'Eterno, ossia quell'uomo che vedeva, gli parla e gli dice di essere la divinità dei suoi padri. E solo a questo punto che Mosè si nascose la faccia per non vedere Dio. Questa reazione di Mosè è molto significativa. Mosè guardava l'uomo senza minimamente pensare di essere alla presenza dell'Eterno, ma quando la persona ha rivelato la propria identità, Solo allora Mosè ebbe paura di guardare ancora il misterioso uomo. Dunque la divinità degli ebrei, cioè Yahweh, si era fatta vedere, cioè era apparsa, e così chiaramente che Mosè si nascose la faccia. Se l'Eterno, il Dio degli ebrei, non si può vedere, perché Mosè si nascose la faccia per paura di morire? Ma come si era fatto vedere ai patriarchi, il Dio degli ebrei ora si era fatto vedere anche a Mosè? Se Yahweh, il Dio degli ebrei, si può vedere, perché in seguito l'Eterno ha detto a Mosè sul monte Sinai che nessuno può vederlo e vivere? Come conciliare il fatto che l'Eterno si era fatto vedere ai patriarchi ed ora a Mosè sul monte Sinai dichiara che nessuno può vederlo? La risposta sta nella richiesta di Mosè. Mosè chiese all'Eterno di vederne la gloria, ma l'Eterno rispose che non è possibile per nessuno uomo sulla terra poterla vedere e vivere. E la gloria di Dio che non è possibile vedere, ma Yahweh, è possibile vederlo, cosa che i patriarchi hanno fatto. Così non vi è nessuna contraddizione quando la scrittura afferma che Dio non si può vedere, o che nessuno ha mai visto Dio. In effetti Dio nella sua totalità, cioè il Padre, il Figlio e la persona dello Spirito Santo, non è mai stato visibile a occhio umano. Ma Gesù Cristo, il Figlio di Dio nel quale abita corporalmente tutta la Deità, è stato visto dai patriarchi e poi nuovamente 2000 anni fa, al tempo di Ponzio Pilato. Quando insegniamo che Dio non si può vedere, dobbiamo sottolineare che con il termine Dio in questo caso ci si riferisce alla Trinità completa, ma non a Yahweh, cioè Cristo, il Figlio, che è sempre Dio e che si è fatto carne. È stato visto e si può vedere perché sta scritto, lo vedremo come Egli è. 1 Giovanni 3.2. Come ha testimoniato Giovanni nel suo Evangelo, nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Giovanni 1.18. Dunque non solo Dio si può vedere, ma si può anche conoscere. E questo solo tramite Cristo Gesù, il quale è l'immagine di Dio. 2 Corinzi 4.4. Novembre 2006. Ellero.